canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Sempre presente. Bonsoir, Messi. Come sta va? Ci avrai che freddo. Ieri allo sera quanto c'è salita? 25 qua. Sì, qua siamo ancora all'inizio, appena acceso da mezz'ora, siamo a 17. Ma spero che salga più in fretta possibile, che se vuoi un freddo. Aspetta. Cava, cava. Claudio, sono rientrato. CQ10, c'è qualcuno all'ascolto? Hola. Hola, hola. Hola, c'è qualcuno all'ascolto? Che già sono qua. Perché poco fa ho chiamato e non rispondevi, anche tu deve sentire allontanato. E qua sono, non so se mi sono allontanato, forse ho abbassato il volume, non so. Sì, perché mi hanno occupato telefonicamente. Stavamo cercando di persona personalmente. Sì, mi hanno tutto personalmente. Sicuramente di mercoledì, domani è Montalbano. Domani non me lo perdo, che c'è Caldarella, domani mi porto a fare il sì, domani c'è Caldarella, sì sì, domani c'è Montalbano, così non rompi i camasigi e te lo guardi. E la capigliara non si è fatto sentire. No, neanche ieri ho sentito io. Io sono entrato 10 minuti ieri sera e c'era Roberto con Luca. Basta, capito. Poi sono andato a vedere quello schifo di partita. Perciò, però non l'ho sentito. Se la zia non l'ha chiuso dentro il serbatoio, che stavano sostituendo un serbatoio, non lo so. Io allora la vedo. Sto poco a lavorare, c'è cioè, tutto a difendeva e Natali. Non saprei personalmente cosa dirti, capito? Sì, sì, lui c'è sicuramente di persona personalmente. Che sciolto mi va a dare di chi mamma mia, gara. Cosa tutto ha combinato Macuri, allucinante, con questo computer minato, con il fattetto ce ne pone in mano il computer, addio, prepara da redì a chi fa vedere ragione col computer. Certo c'è un vento di maestrale ancora, dopo gli vuoi guardare che di bambini sono dentro di maestrale. Sereno, cazzo, ci affrettiamo in tempo e ne faremo tutto in terra. Sta piovendo a me, ma adesso mia moglie. Io già mi stavo vedendo lì, con bisogno di G. Stamattina l'ho portato presto a Filippo, perché ero da un ufficio all'altro. Dopo presto non è uscito, stava piovendo, cazzo, adesso sta piovendo. Vedo l'ora. Non vedo l'ora, guarda, di avere il posto per portare il suo cane al conto Giulio, perché così l'inverno è un casino, eh. Poi tutta la ghetta andiamo in uscì, tutta la ghetta. Sì, abbasserà un po' il vento, e il giorno di maestrale ce l'abbiamo pieni, anche domani sarà così, capito? Però abbasserà il vento, ma al tempo... E così, alla pioggia, va bene, però vai. Va bene, cioè fa bene, non va bene, fa bene. Perché non abbiamo acqua, però una rottura di balle. Lo so, Natali, noi abbiamo l'handicap del cane, e quindi così metticchia. Così è, e così rimane. C'è abile il luce, un mio stamattina. Era qua, ho abbassato più la volgibile, mi stava sporcando tutti i vetri, Cospita. Grazie, sempre a Bozzi, TMR, sempre a Bozzi. Ma riprende l'appello. Attento, pipistrello malefico. Oh, pipistrello malefico, Abigege. Pipistrello malefico. Ciupa, ciupa. Tu cani, infatti. Altra cosa. Anche la vendi, alla marito non è divano. Tu vendi, però. È impazzito quel cane. Beh, la che si fa è mista. Caspita, anche il cane è impazzito. Rampa Pignara! Lasci cucato sotto il coperto al calduccio. Che c'è freddo, capito? Lui soffre freddo. La mamma lascia tre finestre aperte. Allora, è così. Oh, bulldozer. Mia moglie. E te male, anche lei come cane? Impazzita anche lei. Tutti impazzendo stanno anche lì. Non c'è il tempo. No, con cioè, a me mi dispiace se succedono queste cose, ma veramente tuo marito ha detto che tutti impazziti sono. Oh, non c'è, non ti preoccupare che anche qua sono tutti billenti golpi, in cui chi ci sa e fanno anche rugani. Filippo sì che è tolgo. Filippo! Filippo è cuccato, già tolgo il mocefone. Che dici ingegnere Recci? Poi dice quando esci, esce caldo caldo e ne torna tutto ghiacciato, che è sempre a mucco di radia. Poverino. Casino d'inverno con il cane. Mamma mia, come sto. Stamattina mi ha fatto impazzire il computer. Mamma mia. Va via, un diavolo per cappello. Uè, fortunato Lacchi. Gallerie, esci dalle gallerie. Abbaccia il gabo, glielo già che ti faccio i corri. Aspetta, sta uscendo fortunato dalle gallerie. Natali. Così ci saluta, deve essere che è rientrato adesso. La volta il gatto, ma domani di sì, una bella chi, un emozio di neve portato me l'hai. Qui si è fuggito di un tutto per me. Ehi, la gente ci l'ha regato un articolato di neve. C'è lo freddo, no? Non vedi a Cagliari. Perché nella zona di nuvolo dice che è tutto neve. Ehi, ehi. Natalia, lo senti affortunato? No, negativo. Non lo senti? Natalia, non ti sente, non ti accoppia. Cosa vuoi fare? Va bene. Lo sì, quindi. Mi rientro, fortunato. E sempre bassa la modulazione, però. Potresti fare di più. Ah, buono, un micchiglio a manetta, tieni il micchiglio della radio a manetta, fortuna. Poi se il microfono è normale, già va bene. Addio, parituci, niente radio. Sì, pronto? Chi è che parla? Sì, sono sempre io. Sì, adesso ti ho accoppiato. Perché, ti spiego, questo microfono è stato al contrario. Proposto ordinare dalla Germania, infatti... Quando io ti chiamavo da casa è perché i collegamenti erano tutti diversi. Non ho capito. Sarò contrario, ma tra padrone. Padrone tedesco, Io lo so per quello, Per quello che funziona al contrario con il microfono. Capa. Vedi un po' se ho aumentato. Però non lo tocca più, però è una trasolante che... No, te l'ho detto che è qua la zona di Via d'Italia. Anch'io, ciao Fortuna. Ehi, Natalino? Ehi, ciao Natalino, una buona sera, dai. Altrettanto, Fortuna, riprendi. Scappa, dai, riprendomi, dai, io già lo sta Claudio, io entro a salutarvi, poi mi devo dedicare qua alla guida. Attento, non farò mettere ciccio bugiami, che non ha fatto tutti i baletti. Disgraziato, dai Claudio, dai, ti saluto. Jonathan lì, se ci sentiamo sempre, gli orari tanto sono sempre questi, dalle 6 alle 7. Ehi, ehi, a fortuna. Ehi, noi mia, questo entriamo a farci una chiacchierattina. Sono le 7:30, spegniamo tutto e ce ne andiamo a vedere il telegiornale. Ciao, fortuna, un abbraccio. E allora, tra me chiamava Michele, chiamava Lugantonini. Ho visto l'altro giorno che è diventato un tonnetto. forse l'alimentazione di Cassetto. Minchia, per carità. No, Michele è sempre bello snello, ragazzi. Sempre bello in tira. Ah, Ciccio, è diventato un tonnetto, ragazzi. Io da poco si è avvicinato qua alla motorizzazione che stavamo facendo la revisione e mi stava chiedendo, sai, le solite cose, sai, che mi saluto. A ogni modo adesso ha migliorato, Claudio, confermi? Fortuna, non lo toccare da così che va benissimo, la radio 5 è perfetta, bella squillante, non tocchese. Ciao, un abbraccio grande, fatti sentire. Dai, va bene, dai. Ciao Natali, anche a te una buona sera, dai. Ciao Fortuna, buon tutto. Sì, non vedo. Ma è una notte, una grande frattura. Che palette, uno lo devo fare del frattura, non si riesca da me. Attento, ratta pignara malefico. Anche. Nell'Africa vivente, questo. Maestrale, maestrale, c'è da fare, proprio così. Brecca, de brecca, de brecca. Ciao già. Vabbè, sentemi con faccia. Ui, che freddo che c'è. Cazzo mio, ero dal meccanico che mi si è fermato la macchina, sto andando a tre. C'è la bobina partita, cazzo, costa due tempi, e passa io. Non ho capito già che c'era la 50 e si stava sovramodulando. No, ho detto che ero dal meccanico, ci da adesso, perché mi si è fermata la macchina. Stavo andando a treno e mi si è accesa la spia del motore. Sono andato e mi ha detto sicuramente qualche candela in corso, che ha cambiato le candele, invece non era quello. È andato in escursione, ha controllato, ha fatto il check-up. Radiacresi, praticamente le segna che c'è la bobina che parla. Due tette e passa il bus. Adesso domani mattina tocca andare a lavorare con questa macchina che fa blu blu blu blu blu blu. Tu va a 30 all'ora, dove va bene. Domani sera mi avviso. E devi andare con la macchina che fa proprio, anche va a 3. Beh, è andata lì, cosa faccio? Sono andato in folle, in discesa, mi ha detto che già posso andare, però di non tirarla, molto. Ecco. Quindi andrò così. Addirittura mi si è anche spenta, perché non ce la faccio in salita, capito? Ma va a 3, praticamente un pistolo non sta bruciando la benzina. Ebba. Ed è quella specie... Hai visto da dove la bobina della Opel? C'è una specie di coso lungo che va sulle candele. E immagino il meccanico che è un difetto della Opel perché dice che scappa troppo la bobina lì si rovina. E vabbè, se è durata finita là. No, la voglia è cambiata, un'altra volta l'ho cambiata. E vabbè, il difetto è quello più della macchina. Ha detto se ti compri macchina non ti compri più una Opel, perché prima le Opel erano le migliori macchine che c'erano, adesso ci fanno schifo, c'è un tempo il moto di Fiat giù, non serve a nulla. Infatti va, è un macello, non so più che di motori, no? Mi ha detto che aveva di bobine lì, ne aveva, se aveva fatto un po' la scorta, ne aveva del 2008 e del 2006, del 2004 non ne ha preso. Perché dice che andava nel 2008 e nel 2006 a cambiare la bobina perché si illuminava. Dice ma quelle erano cartate, in confronto a quelle che succedono adesso, sono tutte difettose le opere adesso. Che segna macello, che ti devi pigliare una macchina diesel andando dove vai tu, ci voleva una macchina diesel per te. Che caffè? casa non può bere, casa a casa fai il diesel, risparmi di più. Ma io me ne dimenticheggio se puni un'acqua. La mia non consuma nulla la macchina. E vabbè, ma tu vai anche a 80 all'ora, la stai lì, tu per un militare a 80. E io a volte tiro la tira anche a 140, 160, rispetto. La mia se la tiri va a 200 la macchina, cosa c'entra quello? Però se devi andare a 140, quando i nocchi più di 90 non puoi camminare. Noi non abbiamo autostrade qua. Se ti trovano che superi di 30 il limite di velocità, lo sai che ti ritirano la patente immediatamente? Sì, io lo so. Ma a volte sono in ritardo, capito? Devo fare tutto l'ultimo momento, esco da casa in ritardo e devo camminare un po'. Non so che dire. Non è che lo faccio sempre, anch'io vado 80 a 100 solitamente, ma se sono in fretta qualche volta, capito? E come il motore è un bici, un bici. Ah, Gesù, lo vuoi dire a posto? Che macchina che arriviamo domani? E ha quasi 300.000 km. Tu pensa che nel 2002 la mia. Oggi Natale non fa portare il cane a fare i bisogni. Un casino. Ma quando io stavo piovendo a dirotto, mi sono messo sotto la palma, ma avevo paura per i funghi. Peccato, ti ho fatto fare un pisciatino così e poi ho lavato, sono lavato con una cacca, niente. Un casino. Ehi, dici che piovendo un bel, prendi vento freddo. Io devo andare a pigliarli i giubbottini a Curto, perché cazzo, se no quando piove è un casino, si bagna tutto, si fa beh. Ma lo stesso già ce l'ha, ma adesso è tutto bagnato, ma stamattina non lo fa manco a metterlo. E se glielo metti si trema, come glielo metti che è bagnato si trema tutto, quindi non fa manco a metterlo. Io glielo devo comprare perché Curto non ha, è il suo. Ma sai dove vai? Da Bricolcina. Ebbene. E quindi so anche di voi, di tutte le misure, però ti porti anche tutto appresso, in modo che lo puoi misurare. Infatti. Vai con tua moglie, uno tiene il cane e l'altro te lo misura, così almeno sapete, perché a Taito io l'ho comprato così ed era un po' largo. Vabbè che già va bene lo stesso, non è che sia assai largo, ma già lo compro bene, io l'ho comprato addirittura il piumone. Un botto proprio di quelli impermeabili, no, invece di comprarli quelli tipo orchi, roba del genere, ho comprato direttamente un piumone. E uno di questi li voglio pigliare, perché lui è appena accorto e cazzo soffre bel freddo. No, praticamente vai lì, ma lì costa una gattata, non è che costa non chissà che cosa, costa una pescherina. Vai lì dove l'ho comprato io. E infatti, ando in chi vi proprio. C'è una vasta scelta, dove fanno gli animali c'è una vasta scelta, ci sono tutti i tipi di giubbotti. E infatti vado lì e glielo piglio lì. A che sciogliani non ha e quando piove è un macello. Ieri ce l'aveva, diciamo la parte che li copre era tutta bella asciutta, però la parte della testa ce l'ha bagnata perché la testa rimane non è coperta. Ma comunque in ogni caso lo copre, tutto il corpo glielo copre. E anche perché sta facendo freddo. Ma allora penso che anche alle zappe patiscano sia freddo che il caldo, perché malgrado abbia polpastrilli che sono grossi, patiscono anche quando c'è freddo, c'è neve, c'è roba del genere, infatti vendono anche le scarpe per i cani, no? E vabbè, lo mio io non si lamenta, lo mio anda e bu. Cazzo, pure se più vendi. Ma il mio è quello di Claudio, chiamano le pozzanghere, non si vogliono bagnare il piede, a te li mangi. Io cerco di evitarle le pozzanghere, di fargliele evitare, però lui va tranquillamente via. Già lo so che Filippo la teme, e anche il tuo. Eccomi. Da qua, ciao già. Ciao, Cla. Stavo parlando del tempo e sono fama con casa a ringarungare. Io oggi l'ho portato alle 3 quando sono tornato, l'ho portato giù, stava piovendo a dirotto. Mi sono messo sotto la palma, ho fatto due pisciatine e poi l'ho portato su a casa perché lo faccio mamma a stare sotto la palma che scendeva l'acqua. Io non ti fidare già, quando sta piovendo così sotto la palma, che tu vedi dunque la palma che... Prenditi l'ombrello e fallo camminare un gami, quando si bagna lo asciughi, io quando si bagna Filippo purtroppo non lo porto dentro, lo metto nel pianerottolo, prendo il fondo, con la prolunga lo asciugo, lo pulisco tutto, già di qua, è un casino, non stare sotto la palma, già, ma sono stato io camminando, tutto tranquillo, e sto fulmine, cazzo, la strada è illuminata, guarda, allucinante, mi gioco fuggito. Già lo credo che ti trovi con una catenina. Catenine, niente, non l'ho tolte, quando lavoro poi non la metto mai, no, ma è pericoloso anche stare nei giardini, sotto la palma e cose, capito, io lo porto nella strada, nella stradina dietro, sto pieno di foglie lì, non ci sono alberi, capito, lo fa in mezzo alle foglie e poi la raccolgo e ce la butto, invece quando non sta piovendo è tutto asciutto, lo porto qua nel giardino. Fatto da stamattina che sta piovendo, una rottura di balle qua già, stavo parlando di questo con Attarino, con cane d'inverno è un casino. Io mi sono fatto stamattina da Porto Torres a Sassari, col patema d'animo che si fermasse la macchina perché mi stava andando a tre, si è accesa la luce da spia del coso, del motore, campeggiando, da poi si bloccava, si campeggiava di nuovo, con questa cornice si ferma la macchina, è un casino, è un casino. E meno male mi ha portato così a casa. E quello può essere la bobina. Quando fa così la bobina, perché se fosse stata la candela che va a tre, non ti fa così. Capito? Quello sicuramente è la bobina che è andata in corto e fa quel difetto, soprattutto quelle Opel che ce l'hanno questo difetto, ce l'aveva anche mamma. Ehi, surriscalda, perché hanno fatto la bobina sopra le candele, capito? E l'hanno messo in un punto dove surriscalda, me l'ha spiegato il meccanico, che è un punto dove surriscalda molto e è fatto. Ma ha provato prima con le candele, ha detto magari ce n'è qualcuno in corto, ha provato, ma non è andato. No, la bobina è quando fa così. Ho visto mia figlia mangiando si ammala e battuto, tanto è bello in bocca, poi vado a Ivana, ma sei in buccia. E vabbè, ci dovevamo aspettare che il tempo cambiava, perché quindi io sono in grande difficoltà col cane, perché non c'ho tempo in questi giorni che sto correndo a destra a sinistra, uffici, qui, là, capito già, e quindi stamattina ho portato un bel prezzo, dopo pranzo non è uscito perché stava piovendo, adesso sto aspettando un pochino, se calma, perché qua sta piovigginando, se calma lo porto, se vuoi ti dica, avanti Natalì. Ah, il mio l'ha portato, mia moglie, già tranquillo, ha fatto proprio i bisciati e ne ha arricato, ma chi è più vende prende freddo un mezzo. Lo so, capisco che forse la pipì è molto importante per i cani, perché forse può far danno alla vescica, lo so, però lui che mandrò il burro ai cicli, voglio vedere. E poi si mi ha più già, questo il mio invece non la teme, va tranquillo, guarda, tu lo devi vedere, avanti già. A Bologna, ieri accompagnata a Manuela all'aeroporto, che mi ha mandato le fotografie, papà sono arrivato, ci sono già 20 centimetri di neve. Cazzo, chi vi è un casino? L'ho fatto per la televisione, quando veniva a Bologna, figura di dalle altre parti. Casino, anche nella zona nostra, Nuoro, tutte quelle zone lì, è tutto neve. Vignara. Allora entra, hai fra 5 minuti entra. Mi sei citato, dove sei ragionendo? Stava parlando, No, che lui di persona personalmente non entra così. No, vedremi, tra 5 minuti entra di persona personalmente. E ti dice che era sotto le coperte che stava sognando. E ti racconta anche il sogno, mi guarda. E adesso vediamo se ha ragione tu, da. Cazzo, era apparito. Oggi da quando era al meccanico si sentivano gli spadi delle... Che c'era il petto che tirava per la parte, cazzo. Si sentivano gli spadi dal meccanico. Dice che c'erano le guardie giurate. Mia Rattapignara, mi vedendo sotto i baffi, e vuol dire che eri vicino al poligono lì. E dove ce l'ho sperato il mio meccanico, vicino al baffi. Il treno è nata lì che è entrato, addormentato di Marco sotto le coperte di persona personalmente. No, vabbè, a parte gli scherzi, ero da Lidl. Volevo andare alle 5, sia da Lidl sia da Auchan. Però mi sono accorto che c'era un traffico allucinante e sarebbe stato un calvario andare e tornare. Allora, dopo Lidl me ne sono tornato direttamente a casa e ho trovato anche parcheggio. Buonasera a tutti. Buonasera. Uno di quei baobab quanto si può vendere, Marco? Io adesso non me lo ricordo quanto l'avevo pagato. Nuovo scatola, Una cinquantina di euro, no vabbè, forse nuovo è quello, una quarantina di euro, tanto lì garanzia non ce n'è, una quarantina di euro. Oh, andare. Una di quelle coperte all'armadio che non uso mai perché fanno un po' di piedi. Ma da un caldo, quelle di somma, Natale, di discianti, di pesanti, di trono. E ce l'ho io matrimoniale così. E anche io ce l'ho matrimoniale. Solo che da. Lo sai perché non ho trovato mai, perché tu li vedi. Non c'è freddo lì da te. Con la trappunta siamo noi. C'è caldo la notte qua, perché si spegne il riscaldamento alle 10:30, quindi rimane a casa calda calda, tutto chiuso, capito? Anche se io qua riesco parecchio, adesso ho aperto la finestra, fra un po' la richiudo, perché a me il caldo mi fa troppo atteggiata la temperatura, capito? Con le coperte lì, io avevo una mia suocera, non riesco a trovarla, chissà dove cacchio l'ha messa, se non l'ha regalata, ma grossa, bella, di Sillana Merino. Ehi, quella di somma, proprio coperta di somma, è zona di somma. Fatto sta che da noi non sono accesi i riscaldamenti, Claudio, perché c'è stato un appartamento che non era abitato, che perdeva il riscaldamento e stava praticamente filtrando da quella che vende il pane sotto, e quindi hanno dovuto fare lavori e cose, non possono aprire l'impianto, si raccolta, sono terminati. Vediamo se fuori anche questi cazzoni guriani, li ho tutti danneggiati, però mi sa che fra un po' toccherà cambiarli anche questi, casino. Balla, cazzo, spese. Tu dove stai andando alla macchina? Io sono andato a San Giovanni. Domenica, a prendermi il caffè, amico Natalino. E a San Giovanni dove ti ci dà? Dimmi, quando ho lasciato a te, Natalino. Quando ho lasciato a te. Ti ci dà la vita dei vreni. Tutto completamente riuscita la sede. Sono salito senza freni a casa. Stamattina ho portato il meccanico, me li ha sostituito, capito? Caspita! E si è aspettata la moro, adesso. E quella pastiglia era consumata da una quadra 600 e davanti non li avevo messi. Ho messo le ganasce dietro, giunti, uova, cuffie e tutta quella roba lì. Il rettore, il motivo della ventola di raffreddamento. accorto. E quindi non me ne sono manco accorto. Infatti vedevo, ho detto, boh, c'è sta una franata, è già stavanti. C'è sta una franata, sicuro mi ha capito. Domenica non l'ho presa, lunedì neanche, stamattina piano piano sono andato al meccanico. Me l'ha sostituita, c'è una bella franata. Anche perché c'ho la revisione il 20, capito? Mi scade il 20, quindi ho tempo tutto il mese, però la faccio. E cosa vai? Andi già a bene, non te ne basta la revisione. Allora fissa le telecamere, bisogna fa vedere che a macchina bassa a fare la revisione. Non sono d'altro. Sarà, ma io non ho visto nessuna telecamera. Non andate perché voi telecamere, io vado a Fiori, voi la telecamera, io vado a Danilo, a Fiori, a Predanieta, a Fiat, sempre lì sono andato io, con telecamere, perché ti regala la roba, capito? Ogni revisione mi ha regalato, l'altra volta mi aveva regalato i cavi per mettere in moto la macchina, belli grossi, buoni, l'altra volta mi aveva regalato 2 kg d'olio, il motore, quando ce l'ha lasciata la cosa. Io vado da Sini, dietro, come si chiama? Parallela di Viale Polo Torres, dietro, come si chiama? Eurospin. Io ho guardato bene l'altra volta, ho cercato, non ho visto niente di che, nessuna telecamera, nemmeno di quelle piccole, a meno che non siano micro telecamere. Ci sono, io vado a Fiori e ci sono, Claudio, guarda, se vai da Fiori ci sono, anzi ci sono da tutti, per legge, perché devono inquadrarsi la targa ed è collegata con Roma addirittura la situazione. Cosa ride? No, ma sono mai accorto Natale, non insisto, adesso quando vado controllo, perché a volte io lascio la macchina, capito? Ma se c'è gente, no? A quel ragazzo, perché la revisione è separata dall'officina, già lo sai. Io lascio la macchina a quel ragazzo, magari se Danilo è libero, andiamo a prendere un caffè, il figlio del signor Luigi, ci conosciamo. E quindi non me ne accorgo, quando dormo la sta facendo cosa, quindi io magari sto fuori e fumo una sigaretta, però non sto lì proprio a controllare. Allora andando a Baidovidi. Sì, ci sono le telecamere, vado io da Fiori, da Coso, dove fanno quelle dei camion, ho portato quello del comune, ho portato la panda, in tutti i luoghi sto andando dove erano le telecamere. Antonio Brindisi stai dicendo? No, fa un'auto che fanno i camion pure, vaffanguarda, come cavolo si chiama? Marcano? No, da un altro. Comunque lì a Predanieta sempre. Invece a fare la macchina mia sono andato a Fiori sempre io, e quindi lo so. Poi ci sono da tutti. Da tutti quelli che sono andato c'erano le telecamere. Ireneo Cassa. Da Ireneo, Ma sono ben visibili a Natalì o roba micro? Ci sono, già sono visibili, perché non sono visibili, sono proprio dove passa la macchina, perché devono fare la fotografia, non hai capito? Oh, io ho guardato in alto, in basso, ho guardato tutto, non ho visto niente, forse è incorporata, non lo so, nel ponte che... non lo so. Vabbè, tanto la macchina è mia, non devo portare macchine false. Se pensa, sono collegate con Roma, perché non si controllano le auto blu? Che una volta, mi pare, Ustriscia o le Iene avevano visto una magagna, avevano visto le auto blu dei politici privi di assicurazione, lo sai, le hanno beccate, che non controllavano quelle di quegli infami, di chi si magnaccioni. E anche quelle del comune hanno beccato, quelle dei bici. Napoli, ma... Anche il vicino qua non paga la circolazione, ti rimane. Però fermate e te ne biglia la macchina, per carità, è schifo. Vabbè, comunque è importante avere la circolazione, puoi lasciare qualche altro dettaglio, ma la circolazione è molto importante. Non si gira senza assicurazione, perché se ti succede qualcosa vuoi finire in galera. A comune di Sassa non succede, perché quando si hanno l'assicurazione sono tutte assicurate le macchine, che li base ne tutto un coifo. Sì, via dell'assicurazione che incascia dal comune, che hanno in cascia, ma... Già in in casa, i mezzi sono della protezione civile, non sono manco del comune, anche tutte le macchine che c'ha il comune sono della protezione civile, infatti a ritirare il libretto noi andavamo alla protezione civile. Sì, ha detto, ma mi ha l'assicurazione che fa il comune, già arrivata. Tutte le macchine sono assicurate nella stessa assicurazione e le fanno tutte in una volta. Infatti, pur se tu cammini senza assicurazione, è assicurata la macchina. Capito? Se ancora non ti hanno consegnato la polizza, la polizza è pronta quel giorno, sac, e tu sei assicurato. Allora, vabbè, quello l'ho fatto la mia assicurazione, come io ho preso la 600. Ho telefonato, ma l'hanno messa subito in copertura, quindi sono partito, ve l'ho comprata, che la macchina è assicurata, senza tagliandino, senza niente, quindi se, siccome la legge ormai abbandona la targa, se qualcuno vuole la targa e fanno la visura, la macchina è assicurata. Come sono arrivato a Sassari, sono andato e mi sono ritirato la polizia, quello già, è possibile farlo, non è un problema. Fiducia, chiaro che io sono un sacco di anni con la Vittoria, quindi andiamo a farlo, ma l'ho fatto anche per la moto, non problema, vai già. E io lo stesso sono, per queste cose sono io, controllo sempre, pago quando c'è da pagare e via, fin quando Dio mi lascia il lavoro, sono sempre, sempre puntuale nei pagamenti. Se Dio non ti lascia lavoro devi essere sempre puntuale. Ma buona geometra, la macchina è senza assicurazione, come la mettiamo? Vai, già sei assicurato, appena arriva la polizia già te la do. Io sono sicuro che quei farabutti delle auto blu, no? Non dico qua, magari a Roma, io dico che ci fanno un incidente, no? Non hanno l'assicurazione e vanno dagli amici degli amici delle assicurazioni e ci fanno fare al momento, capito? Al momento ci fanno fare un'assicurazione che parte da prima per far vedere che sono assicurati. Cosa credi che non le facciano queste zozzerie, soprattutto i potenti? Te credo che le fanno. Metti che investano uno, no? Tamponino uno. Magari ce la fanno fare retroattiva, no? Che parte da prima, in più ti danno la colpa. Perché loro hanno sempre ragione, capito? Come i matti. Se trovano qualcuno che ha la dashcam, la ragione, voglio vedere se riesco, la colpa, voglio vedere se uno non ce l'ha, come fai a dargliela. E allora li incastrano malamente. Ma sai cos'è? Ricorda che i potenti trovano ogni magagna. È come quando c'è un testimone in macchina, in moto, no? Ti fanno danno e ti dicono, ma noi non possiamo dare il bugiardo al nostro cliente, capito? Io sono sicuro che se anche sai la dashcam, quelli vanno a dire, soprattutto se è gente potente, che la registrazione era inopportuna, qua là, non lo so, trovano una magagna per cui sei sempre colpevole tu, mi. Capito? A proposito di dashcam, a me, da giovedì a Lidl ci sarà una dashcam di quelle andanti, 49 euro con ventosa, dashcam con visore, cavi, cavetteria varia. Che cos'è la dashcam? Allora, la dashcam è la telecamera, videocamera, che si mette in macchina, sono videocamere da macchina con attacco a vetro, ventosa oppure ad adesivo, che serve a registrare tutto quello che succede, cioè data e ora. Metti che durante un incidente ti dicano lei è passato col rosso, e tu invece c'hai la prova, la dimostrazione che sei passato col verde, magari uno col rosso ti è venuto addosso, capito? Dashcam si chiama, è una videocamera, ce ne sono di tutte le marche, di tutti i prezzi, ce n'è dai 29 euro fino ai 300 e più euro. Come è un pareggio, ma la bonga davanti, mi si conta tutti i gorrottoni. Metti che un pedone ti dica, no, dice io stavo già attraversando e mi è venuto addosso, no? Sai quei pedoni che si buttano in strada all'ultimo istante, no? Che sia un metro da lui e loro attraversano di botto, ma è successo a me, in via Corso Trentano a Tallinn, un ragazzino, su, ha aspettato che fosse un metro a lui, si è buttato in strada, giusto il tempo di inchiodare. Allora, ha detto, ma la ragazza tua, capito? Come gli animali fanno, non c'hanno testa certi, e poi magari ti mandano in galera. Invece se c'è la dashcam almeno vedi che quello all'ultimo metro si è buttato proprio davanti alla macchina. Magari per farci pagare, ci siamo capiti. Ehi, a me mi hanno amministrato, Ducata, giù mai, mi districi banali in corso Trinità proprio. Cazzo, ho messo la mano sopra il cofano e ho saltato la macchina, sennò in pieno mi avevi abbigliato. Attenti, bisogna stare molto molto attenti, viene un po' di guai, non so. Ieri c'era qualcosa qua in via Calofelice, però stamattina ho guardato il giornale e non c'era niente. Oh, ma tamponamento, che incidente? No, il movimento c'era, c'è anche Roberto ieri sera in radio. C'erano vigili del fuoco, proprio all'altezza delle rospine. Ho aggazzicato anche lui lì, nelle strisce di nuovo. Qualche moto, qualche buco, qualcuno scendendo a piazzare segni, la via Carlo Felice, c'è un vigile del fuoco, i carabinieri, l'ambulanza, i vigili urbani che stavano deviando il traffico. Fu un casino, vero? Ieri sera, un po' più tardi forse di quest'ora, forse verso le 7. Stavo guardando l'ultima ora, ma non ho visto niente, sul giornale non c'è niente. Perché fu un casino, bagoscia. Di solito quando c'è questo movimento qua o c'è un vigile a fuoco c'è qualcosa di grosso, non so, vabbè, avanti già. Dice allora, io ditemi se sta piovendo, cazzo, se non sta piovendo esco a portare il cane, ma come ne buco mezzo del bar, forse non sta piovendo più. Allora, vediamo sulla nuova, ma io non sento piovere adesso, C'è scritta una cosa invece, una notizia nuova, non so se sia nuova, assaltano un chiosco bar a Platamona e prendono in ostaggio il custode. E si vede in pare una porta sfasciata, capito? Assaltano un chiosco bar a Platamona e prendono in ostaggio il custode. Adesso me lo leggo, un attimino. Il custode si vede. Riprendi già che mi vesto, riprendi, già sono qua. Gianni? Gianni sì, è giunto un giorno. No, magari è andato a bere o in bagno. Oh Natalia, ho visto una dash cam, no, pubblicizzata su YouTube, costa 330 euro. Ma è una cosa spettacolare, certo quella è per chi ha soldi. Telecamera anteriore e posteriore, indica tutti i dati possibili, c'ha anche il GPS integrato, quindi vede e registra la tua velocità. Quindi se sei intorto tu, eri veloce, la dashcam lo registra, quello può essere controproducente, ma se uno è onesto e comunque in città tiene le velocità, anche fuori, non succede niente. Ma c'ha GPS, non so, wifi, si collega in diretta al tuo smartphone, c'ha un bel di roba, però 330 euro è, non è per tutti. No, io ho una tarima, me ne sono messa una presa da Auchan da 29 euro, è un giocattolino mi, guarda che la vedi anche in TV. In TV la vendono su un DMC Shop, quelle cose lì, 29 euro costa, e ha un'immagine così VGA, però bene o male, cioè, i semafori li vedi, capito? Vedi com'è andata la storia. Sì, infatti, cazzo un po' di gente se la sta mettendo, perché qua ci mettono poco a pigliarti nella patente, mi sei una tronza. Allora, leggo brevemente. Sorso, banda dei rapinatori in azienda nella notte tra lunedì 13 e oggi, martedì 14, a Platamona. I malviventi hanno assaltato uno dei chioschi bar che si trovano al secondo pettine, prendendo in ostaggio il custode notturno, ma sono stati colti di sorpresa dall'intervento dei carabinieri. Quindi vediamo, bla bla bla, vediamo, insomma... Sono stati due rapinatori arrestati, gli altri dileguati, eventuali complici, capito? Su diavolo. E chi ci sono questo cosa? I carabinieri, quelli di Porto Torres e passano lì. Eia, c'è scritto mi pare Sorso e Porto Torres, queste due. passo, guardo se c'è notizia di Carlo Felice lì, via Carlo Felice. Ho guardato sul tetto, ho guardato dalla strada se c'era ancora l'antenna, per via il vento, c'è ancora, Se stai parlando con me c'è sicuramente. Eia, vedo che sale un po' meno lo smitter perché sai l'antenna bagnata, un po' di stazionale da 1,2, 1,3, anche 1,5 mi quando piove, perché proprio fa, sai, bagna proprio tra il polo centrale e la, diciamo, i radiali, è normale quello. Non vedo l'ora, cazzo, quando fa bel tempo di piazzare sulla canna a pesca, cazzo, così almeno è tranquilla. Qui c'ho l'accordatore attaccato, Marco, se voglio posso disturbare. Se voglio già disturbo, perché cazzo ha fatto la potenza e disturba subito. Adesso sono a 2 watt. Stazionare ne hai per la pioggia? E io puoi stazionare, infatti ho inserito l'accordatore per quello che sono passato. No, ma quante stazionarie senza accordatore? Allora, non te lo dico io. E uno e due quasi. Io non ne ho niente. Né come né scienza, sempre a zero già. Dai, vado a portare il cane che non sta piovendo. Un attimino, certo, ma subito, ok. A dopo, svegliate Gianni. Eia, eia. Sì, Natali, per 1,2 non si mette l'accordatore. Se sai, se sei 2 di stazionarie o insomma dopo 1,5 posso capire, ma nemmeno dal 2 in poi l'accordatore può essere utile, ma 1,2 io ci avrò 1,5, ma non ne metto l'accordatore, non esiste. Per 1,5, 1,5 non è niente, Natali. Ma esco più forte se non è inserito, non hai capito? Ah, esci più forte. Vabbè, è meglio così allora. Esci a vedere, Panda BMW in fiamme in via Giua. Indagini sulla morte del motore. Non parlo di Carlo Felice però qua. Sul giornale di oggi posso guardare, ma non lo so. Carlo ha detto che non c'era niente in fare. Gianni, mica ora andare a lavorare, mi. Pensa che quando sono tornato da Eurospin, no, alle 6:05, da Lidl voglio dire, ho chiamato Claudio là, al canale monitor, per vedere se avevano staccato le antenne, non l'avevo acceso, mi ha detto, no, guarda che siamo sul 10. Dice, se non ci sono fulmini non stacchiamo nulla. Io non ho staccato nulla perché bisogna che mi tocchi una punta per staccare il piede, perché è talmente stretto che ieri non sono riuscito a mollarlo. Eccomi qua, mi sono portato l'acqua e il giornale di oggi, tutto arruffato perché il gatto era seduto sopra. Mi sono portato l'acqua che ho bisogno di bere. Io bevo abbastanza, L'acqua è vita, l'acqua fa bene, è idrata i tessuti, eccetera. Sì, siamo fatti d'acqua. Eia. Ho letto una casa, una cosa, Natalia, lo sai che c'è anche intossicazione d'acqua? Beh, se l'acqua non è commestibile, è logico che ti avvelena. No, non quello, proprio l'acqua ti intossica, anche l'acqua di bottiglia. Cioè se uno dice per esempio beve 5 litri d'acqua in pochi minuti, una cosa del genere, ma è una cosa spropositata che un uomo non riesce nemmeno a fare, ma se bevi, che ne so, almeno 5 litri in 10 minuti, dice che ti scompensa tutti gli elettroliti, è una cosa pericolosa che può portare addirittura alla morte. Beh, logico, se ti bevi 5 litri, 2 litri vanno bene al giorno, che non li beve nessuno, però dovrebbero essere bevuti per stare bene. Eia, aspetta, il giornale è tutto sfasciato, Vediamo se riesco a trovare quella notizia, tutto a pezzi è fatto il giornale, quando lo dai al gatto, no, è tutto a pezzi, sto a trovare la notizia, è un casino adesso, vabbè, pazienza. E infatti, adesso faccio le fotografie di baracchini e mi riprendo tutti e me ne compro uno con un bel canali, però omologato. Omologato, sì, c'è il 3009 omologato, c'è il Joe Pix Ithaca, dovrebbe trovarsi ancora, poi ce ne sono omologati di altro tipo, però sono più costosi, tipo President. Li trovi da Magic Phone, amico, il farabutto. Adesso non li devo scendere, gli faccio le fotografie e li metto in vendita, tutti qua. Così mi compro un bello 2001 XT. Boh, lascia perdere Natalia, ne ho sentito parlare sui forum a lungo, molto a lungo, ma lì c'è una gaggata di apparato, proprio una cinesata. Tutti ne parlano male, non lo so perché, 8001 XT o quello che è. Hanno detto una delusione proprio. Boh. E non è uno che lo dice, lo dicono in tanti, eh. Allora bisogna vedere se è l'XT, perché io sto dicendo quello omologato si chiama XT. E c'è l'omologazione, per essere tranquillo, almeno non è proprio tutto da qui. Sì, sì, XT, extra tango. Allora, Sassari, tutta politica e questo schifo della nuova. Proprio a me di politica, tantomeno le sassarese non mi hanno fatto nulla. Sto mambezza, dai. Soldi buttati con la nuova Sardegna. Ti mettono poche righe di cronaca e tutto politica. Io me ne voglio prendere un omologato, in modo che sono sempre tranquillo qua. Perché almeno se è omologato non ha i picchi di modulazione che disturbano, non manda spugli, capito? Io lo voglio così per questo. Ehi Natali, per esempio questo è un Superstar 3009 omologato, 40 canali, 4 watt AM, 12 watt SSB, capito? AM, FM, SSB voglio dire, 40 canali, omologato. Esce come esce, il trimmer a metà, non l'ho messo a manetta, se no l'omologazione non c'è più se esce forte. Il trimmer a manetta non disturba, perché non disturba, nessuno si è mai più lamentato, tranne quella volta che il tecnico aveva fatto un pasticcio di fronte, capito? Poi adesso magari sto facendo una cazzata, perché devono cambiare il modo di emissione le televisioni, bisogna vedere se entri, se non entri, boh. Ci sarà da cambiare roba nell'antenna, ma non adesso, un caso, pochi baraldi. Sì, praticamente i cellulari 5G, la banda 5G, capito, adesso rubano anche le frequenze delle antenne, poi ne ruberanno ancora magari per il 6G, capito, non finirà mai. 700 MHz oppure più non so, forse parte oltre i 700 MHz o prima, non lo so. Insomma, le antenne verranno adeguate alle frequenze giuste, anziché, che ne so, anziché 470, 800 MHz, non mi ricordo adesso esattamente le frequenze, saranno con una banda più ristretta, perché l'altra sarà foto nei cellulari, scusando il termine, sarà foto nei cellulari, di 6G, di 5G voglio dire. E poi verrà cambiato il codec di trasmissione, che anziché DVB-T, adesso il DVB-T, insomma, sarà il DVB-T2, mi pare sia l'MPEG il codec di trasmissione, MPEG, prima non so qual era, o viceversa, non mi ricordo bene. E serve per comprimere le trasmissioni, ecco, quindi faranno un macello, ci sarà da fare, quando ci sarà che chiudono il segnale normale, là. Ehi, hanno rotto le scatole, poi magari fra altri 10-12 anni, altro codec, vai, altre spese, comunque la televisione mamma non lo cambia, casomai cambia il decoder, ricordati all'inizio costeranno di più, ma poi quando ci sarà proprio il passaggio completo al nuovo sistema, che sarà forse nel 2022-2025, non mi ricordo. Allora lo puoi comprare e costerà meno, sarà un banale decoder come quelli di adesso. Sì, il mio ce l'ha incorporato, adesso non lo so se è TVB2 il mio o seppure vuole cambiare il televisore, devo guardare adesso. Guarda, un gruppo di consumatori ha detto di stare molto attenti quando comprate il televisore col nuovo sistema, perché molti venditori tenderanno a voler vendere i vecchi televisori, a smerciare i vecchi televisori. Bisogna accertarsi che abbia quella banda di frequenza, quel modo, quel decodificatore lì, quel decoder nuovo. Comunque guarda, noi non cambieremo prima, noi cambiamo solo quando vediamo tutto nero, quando spariranno tutti i canali allora compreremo il decoder nuovo, ma non prima, eh. Infatti, e poi sicuramente c'è da fare qualcosa sull'antenna, quanto ho capito anche. È un sistema un po' così, a fare pinti di naraienti, non lo so qui. È sempre così. Prima siamo andati bene con l'analogico per 50 anni, o quant'era? Bello, pochi canali, e niente televendite, semenate che mandano adesso. A me francamente di avere 150 canali non me ne frega niente. Io guardo sempre i soliti, le reti Rai, le reti Mediaset e poi qualche canale Rai Movie, Mediaset Extra, che sono sempre Rai e Mediaset. Non guardo canali strani, al massimo guardo D-Max, guardo Focus, Marco Polo, che ha dei documentari, quello è vero. Ma ci sono una gran parte di schifezze, di televendite, di vendite di vibratori per donna, capito? Hanno fatto anche quei canali. Sì, infatti, dimmi tu, adesso vado a far vedere in televisione questa cosa. Sta proprio è a livello europeo questa storia del TVB2. Sì, sì, è a livello europeo. L'Europa ci ha fregato in tutti i modi. Prima con questo digitale terrestre ci ha fregato il fratello di Berlusconi, adesso l'Europa pure. Ah, è vero. Oh, io mi ero preso un viso al caldo, faceva se li faccio. Ah, già, io l'ho detto, Gianni si sarà addormito, altro che. Sono stata la coperta calda a casa. Mi sto curito, mi dormo pure io, non hai compreso. Io adesso non ce la faccio manca a guardarmi i programmi TV. Se tocco letto che sono coricato mi addormento. Idem, e mi sveglio alle 3 di mattina. Di qua. Vecchiaia. Vecchiaia carogna. Davvero, mi dovrebbe no, quanto più smetta. Ieri c'era il grande flagello, poi adesso me lo guardo a vedere la sola di Belen, la porcona. E invece non ce l'ho fatta. Se mi sono dormito un altro di qua, non mi sono riuscito a dare 3 di mangiare. Sì. Vabbè, già. Cosa? Gliela darisse una botterella alla sorella di Belen? Anche due. Eia, ma secondo te tra le due chi è più bella, Belen o la sorella? Perché certi preferiscono la sorella, non so perché, certi Belen. No, io preferisco Belen, ma sono preso per le foglie. Ah, non avete stile, a me mi piace Pippa. Pippa chi? Quella inglese? Ehi, c'è un bel... E allora fate una pippa con Pippa. Sentita la mia moglie cosa ha detto. Adesso vengo e ti sparo a te. Eia. Ma non ho capito una cosa già, perché sta sempre piangendo alla sorella di Belen? Ogni volta la inquadrano nel sommario della settimana sempre piglienti. Una faccia secondo me. Di soffrire perché ha messo le corde al ragazzo che fuori con quello che c'è all'interno della casa e fa finta di essere pentita, però nello stesso tempo continua, capito? A chi sa si mette in mano la posso camminare a zuppa? È una gatta morta, eh? Ok, che hic, eh? La sorella della Middleton mi attissa, due colpiti glieli avrei dati dai Zigusu, come dicono i pastori sardi. Ma esiste, sto mondo di grumattare in lava. C'è un altro che mi vuole sparare, che sono un vecchio, ma io ne voglio una di 20 anni da mettermi, cazzo, in grembo, che così mi faccio fare caro caro che c'ho bisogno d'affetto. Non parli adesso, no, vecchiaccia. Perché quelle anziane ci danno la rottamazione, ce ne prendono due da 20 anni, invece che una da 50. Ascolta, è la... come dice Carmen Russo, non merita, nonostante sia un po', no? No, quella è vecchia, cosa te ne fa? È una di 18 anni, anzi si è più male di 18 anni, già troppo anziana. Mi ammazza! Cazzo anziana, cosa la vuoi di 13? Ma che no, di 18 almeno, me la siedo in grembo e mi faccio fare caro caro almeno, io c'ho bisogno d'affetto Marco, tu pure gatta, non è io non lo so, tu cosa ti fai di una vecchiaccia? Così ti ammazza! Ehi, ma Carmeluccio, guarda che ancora, non posso dirlo adesso il termine perché... Vabbè dai, chi è avanti? Sto rispondendo a Natalino, usi t'ammazza. Ciao a tutti. Ciao Giulietto, buonasera. Ciao io. Ciao Giulio, attenzione davvero mica, la moglie Natalino si vendica quando sente queste cose erotiche. Se ha detto che mi parava, e un chi aveva lasciato a pochi allegri. Che armata, piccola è, ma... No, ma non è che avete capito, non è che l'ammazza la moglie, l'ammazza la diciottenne che vuole lui. Lasciateci allegri, però, fai piacere, fa vedere di tutto, lasciateci allegri. Ammazzalo allegri. Dai, io sono rientrato, ciao Giulio. Già, io ho già fatto, ti conviene andare adesso. Non sta piovendo, mi ruscio. Ma sono sotto le coperte del calduccio. Allora accate come te chiedete. Oh Natalì, guarda che la diciottenne ti prosciuga a me e ti fa tipo la mummia a me. Che ne sono? Sono le 7 minuti mi pare, no? 7-5-7-6, là. Ciao qua. Gianni, sentito anche cosa ha detto mia moglie? E cosa ha detto? Cosa ha detto? Facci capire, aiuto. Che bella diciottenne, ha detto che ci vuole il Viagra e il portafoglio a fisarmonica. E anche altro ci vuole a fisarmonica. La chichia. E io non ho detto niente con c'è, io ho detto ci vuole anche altro a fisarmonica, capito? I pantaloni a fisarmonica, le scarpe. Tu siete mariche. Dai, fregatevi. Forza Italia. Sì, oh yeah. Forza Italia che sta vincendo 1-0. Ma che dai, che vergogna. Fuori tutta la melma che c'è in federazione, bisogna farla fuori tutta la melma, e non solo in federazione, anche in tante società. Ma vediamo l'altro che rimane di mai fasciuto il visore, l'argomento si muove lì dalla Svezia, si stavia eliminato la Germania, la Spagna, hai detto, vabbè, sono più forti, ma la Svezia, 4 anni che non fa il Dia Mondiale, per carità di Dio, poveri italiani, lo sport è andato a schifio, vai Gianni, Pesadini e Porca Rugani, mica sta arrivando la bufera, ti ho detto. Poi, aspetta ancora, si sa si anche in terra si è stato sposato, è quello accovacciato. E poi ha drumito e ha giuraghello, ha detto io al nonno, più un brinco e andiamo. Adesso mi ho messo fuori nel pianerottolo e l'aria era tutto pulito, con le serviette, tutto asciugato, bello, ho fumato e va, e si trova da cucare. Allora poi pongo lo pigiama e da appoggio. E io di notte ho messo la coperta, ma mi scrivo. Coperta? Sto letto, sto dormendo con la trappunta, lui dorme vicino al letto. nel suo lettino cosa coperta. Ma un cacchio, poi adesso c'è dove? Vicino alla tenda, sotto lì dove c'è il divano, il lettino e va un capo sotto al termosifone. Sono le 5 e mezza, le 5, sono le 19.08, 0.10, dai, 19.10, siamo già 20, quasi 22 gradi ci sono, ma fuori ragazzi viene giù 6 e 8, vai giù. Quando sono uscito ce n'erano 8, alle 5, ma giù, ma Claudio, cosa ha detto? Com'era deve arrivare? Avete parlato in due? Sì, Marco. Dice che ha dato rinforzo di maestrale, stavo guardando poco fa il meteo, quindi sicuramente rinforza. Adesso ha calato appena appena, ma non molto, ma c'è un po' di freddo. Cosa hai detto giù? Che sto guardando la partita, continuate voi, sto guardando l'Italia-Russia, 1-0 sta vincendo l'Italia. L'Italia piccola. E se gioca l'Italia piccola, quella mano ha vinto in minore. Sicuramente sì. Vabbè, adesso questa stanno vincendo con la Russia 1-0. La Faula no. Hai sentito la misfatta? Sì, lascia perdere Buffon, che ha chiuso con la nazionale, hanno chiuso tutti con la nazionale, perlomeno i vecchi. C'era l'articolo Barzagli e Chiellini. Chiellini va via anche dalla Juve quest'anno. Io so, sì, beh, è ovvio, ormai loro sono senatori. No, ma io l'avrei eliminato del tutto queste partite nazionali, penso un po'. Intanto si è infortunato Quadrado, intanto no, così. E anche Chedira non sta molto bene, sicché ti puoi immaginare, a lei conviene la Juve a mandare i giocatori nazionali, ma è una vagogna, tutte le volte che vanno in nazionale ne ritorna qualcuno infortunato, non è possibile, ma speriamo bene che non sia una cosa lunga. Sì, vabbè, ma quelli giocano in nazionale loro. Cosa avete da noi? Purtroppo se li convoca la nazionale deve andare, non so se come funziona, se si possono rifiutare o meno, no, questa cosa non la so, però gappa gappa, eia eia, avanti già, riprendi, fai girare per Natalino. Eia, tutto marcio, anche nel calcio, a parte di questa rete di cose, non lo fa manco più guardare. Oh già, ma lo sai cos'è Marciume? Eh? Ma tu vedi Claudio Spalviero cos'è Marciume? Che è una Ilari Brasi, moglie di tutti, che si è ritirato quest'anno dal calcio italiano e ha guadagnato una barca di soldi, prende 50.000 euro ogni lunedì per il grande fratello VIP. Questo è uno schiaffo alla povertà. È tutto uno schiaffo alla povertà, Claudio. Si dice farlo al posto mio. Ci sono pagati esageratamente, c'è il calciato lui, sia di questi presentati lui, questa gente qua è pagata in un modo esagerato, Claudio, ha ragione. Uia. Dovrebbero dare delle cose eque. Dove? Io so, dico, ci sembra ragazzi pure che valgano loro quanto pesano, e poi per farsi baciare anche dagli altri. Io ho prestato tutti che se l'aveva baciato la gara, ma si è fatta baciare la signorina, non l'hai vista? Io beh, faccio baciare da un gay, non è un problema. Bacio i signorini, cosa vale per una donna come i dare i bracci? Nulla. Come che io mi bacio a mio figlio in bocca, ma che si goccia. Non è niente quello Gianni. No, ma Marco, io sto parlando della moglie di tutti, che non ha nessun bisogno di lavorare, assolutamente. Ci sono altre persone che hanno bisogno di lavorare, capito? Tu prendi Simona Ventura, è già da tantissimo tempo ferma, no, ha grossi problemi finanziari, questo è stato dichiarato, ok? Altrimenti non sarebbe andata a fare l'Isola dei Famosi, o Bettarini. Capito? Però dico, non va bene Simona Ventura, ce ne sono tante altre, perché deve devono lavorare sempre le persone che hanno già i soldi, che stanno bene. È uno schiaffo alla povertà quella, capito? Vabbè, quello sì, ma ce ne sono tanti schiaffi alla povertà che non viene bene a dirlo, mamma mia. Sì, siamo all'avventura, l'ho vista da Costanzo l'altra volta, mi pare, no? Aveva una faccia un po' scura, forse è lì che ha dichiarato che è un po' nella migragna, capito? Perché la separazione, tutto il contesto, eccetera, quindi Maravaniere, cosa effendi? Effendi tu sì che vale, sentivi, bugiada, un chicca tablet, giusto, sta aiutando Maria De Filippi, ci sono tante persone grandi che hanno necessità di lavorare e che non sono mogli di calciatori, che sono scomparse dalla televisione. Invece no, Ilary Blasi che fa il grande fratello VIP a 50.000 euro ogni lunedì, rendetevi conto cosa prende, ok, 50.000 euro alla settimana, ogni settimana, ma tre mesi, tanto è tre mesi un grande fratello, fate un conto, come sta a fare un conto, quanti lunedì ci sono in un mese, fate un conto, cosa prende per dire due stronzate, più fa le iene, anche lì è ben pagata. Quindi io dico, ma come si fa? Ma come si fa? Cioè questa è veramente una vergogna. Vai Giulio. 1-1, ha pareggiato adesso la Russia. Adesso al 45esimo ha pareggiato la Russia. Sì, ma cos'è? Il campionato di cos'è? L'Italia piccola è, l'Italia piccola, l'Italia B. La Under. Sì, ma cosa, che partite sono? Campionato di cos'è? Penso che sia anche quello per fare gli europei, no? Dovrebbe essere quello. Ho capito. Vabbè, finito sta brutto che lo fa, mamma mia, cioè mia figlia sta facendo i capelli della mamma un casino, no, mi sa la Ianna, ma è caldo, devo aprire la finestra. E vabbè, avanti Gianni, riprendi. La immagino noi a zappare. Oi. In un mese ci sono 4 settimane, 5 settimane, 4 lunedì, 5 lunedì, quanto sono? 6. Guadagna 600 euro in 3 mesi. 600 euro, sì, magari, 600.000 euro in 3 mesi, ma ti rendi conto? No, ma 5 per 4, 20. Sai che ci siano 5 lunedì sono 200, se sono 5 lunedì sono 250 al mese. Vabbè, dalle 6 alle 700.000 euro per 3 mesi. Roba da matti. Beh, mi basterebbero a me, mi bastano, appena. Quanti baracchi ci sei comprato, ma? Mi sarei comprato, la patente era arrivata comprata proprio a sfregio per non fare l'esame. Al secondo non è il chiosco di Caschetto. Il chiosco di Caschetto allora non l'ha appinato, Marco. Ah boh, io ho letto un chiosco del secondo pettine, non so quale sia, non vado al secondo pettine, non so quale sia, non so se ce n'è uno, due, tre, quanti sono? No, quello del secondo è quello di Caschetto, io lo conosco così, si chiama Gavino Caschetto. Al secondo c'è lui, perché al sesto c'è Usai, Gavino Usai. Mi fermavo quando ero a Castelsardo l'estate. Al secondo c'è, sì, aspetta, le volte machine, tutto ne hanno buttato. Ma i carabinieri ne hanno presi già due o tre, me. Ne hanno già presi, c'è forse qualche latitante, no, ladri galline sono, me, non sono andati lontano. Ah, c'è la pisca. No, l'ho rapinato lì al chiosco, lì, al secondo. Il secondo è quello dove si entra per il centro commerciale, lì, capite? Lì, quello sono lì. Voglio esemare 20, per forza. C'è una fama che si stanno buttando, anche l'ultima rapina che hanno fatto, ma poi andare a finire in galera, ne pigliate subito come a te, se quelli che hanno rapinato qualcosa, il tabacchino, cos'è, 1.000 euro. Ma non mi fate le cappa 1.000 euro. Sì, io non ho buttato via l'uso automatico, è arrivato proprio il proprietario e hanno sequestrato anche lui. A Sorso l'hanno rapinato. Allora, a Sorso sì. Ehi, tre giorni fa hanno aperto il bar a Carmela, quella di Corso Trinità, quella vicino a Bernardinelli. Sì, ma falla vera rapina bella, è quella che hanno fatto la Mondial Paul, 11 milioni, 12 milioni di euro, capito? Era di notte, mi pare, intesi, 1 milione di euro a testa, ancora non ha avuto nessuno, però chi si è una bella rapina, soldi puliti, non maccati, puliti, dei supermarket, dei banchi, tutte nel cavò, tutte pronte a versare nelle banche, chi ci sono rapini, cazzo, una volta fa male tappa 1000 euro. Ma quando era? Quando è stato? In che anno? L'anno scorso, quando è stato? L'anno scorso, neanche 2 anni fa. Oh, poi un uomo del cortato. Adesso mica viene il Natale che la gente ha bisogno di soldi, ha voglia a rapine, mi. A tabacchini, a farmacie, mi affami. Dai va, con cuore. Mi dall'altro, mi. Oh, e Lugarier, andato sia a... Ah sì, già mi hai mandato un messaggio, già te l'hai preso. Cosa? Andato sì da Lello a prendere il coso. Sì, si è piazzato pure, ma giù quel capo è tarato, già a tagliare. No, oh, quel capo era giusto, io ho tolto la macchina, era perfetto. Era quello che della Peugeot, quello lì. Era perfetto, stazionale non ne avevo. Adesso mi sa che è attacco il PL pure, così è pronta. Anzi no, non mi conviene attaccare il PL, o sì. A tararla, mia, prova a tararla. Come cazzo faccio a tararla? Dove la metto? Il cavo io l'ho lasciato così, avevo registrato appena l'antenna lui. Il cavo era così, era lungo perché quel cavo lì ce l'avevo nell'Audi, capito? Quindi era lungo, ce l'avevo dietro l'antenna. Non, problemi non me ne creava, avevo solo registrato, ma appena un pelino l'antenna, mi pare che era salire o a scendere, adesso non me ne ricordo. Quello era il cavo dell'antenna V1. Capito? Andava benissimo, era perfetto. Oh Luca, attacca le UBL e prova l'antenna prima. Che ma non va attaccato un massacra? Come te la massa? Quello non va attaccato, avvitato al coso dell'antenna. Sì, ma l'antenna dove attacco, la poggio così a terra. Ah, non c'hai base magnetica. Amico mio, io non ho base magnetica per l'antenna CB. Bisognerebbe provarla con quello lì, con una base magnetica, oppure, non lo so, di la Natalina vedi come ti ha fatto questa base magnetica a provare l'antenna della macchina. Non lo so, perché l'antenna era, se la vedevi com'era, mamma mia, ma mi può chiamare, tutta la sistemata io, se no era un'antenna da buttare, ma da buttare proprio, tutta pulita, guarda, era un coso, chiamiamolo un pezzo di vero rugginoso, va. Oh, Natalì non l'ha messa con la staffa paro, Natalì. Dipende che antenna è, capito? Io sì che l'ho messa. Una PLC 800. Vivo una staffa, la attacchi a un tubo e anda. Una staffa di quelle cose, paro, o lui bisogna procurare, io non ne ho. Avevo una, l'ho fatta, non ne ho di quelle, capito? Qualcosa bisogna fare. Giulio, tu nuda ne sei. Che cosa? Lo sto ascoltando la televisione, non ho capito di cosa state parlando. Un'antenna di macchina senza base magnetica vuole attaccare Luca, così la massa la vorrà fare. Una piastra di ferro, fa un foro al centro e mette quella, un po' di massa già la fa. Sì, dimmi Luca, una piastra di ferro, una cosa del genere, buchi, è come che stai bucando la cappotta e la metti così, capito? Ma mi sa che c'ho qualche tappo di baracchino io, faccio un foro e la metto lì, ma solo che poi bisogna tararla, capito? Se ci manca anche una vite, ci manca. No, guarda che la posso mettere io, una vite qualsiasi, di quelle piccoline, quelle viti, quelle che tengono lo stilo, ne manca una, quella di su. Oppure una boomerang piccolina, cosa costa? Costerà 40-50 euro. Una boomerang piccolina, va bene. No, ma mica devo finire la pantenna. No, così, io sto per sistemarla questa qua. Poi mi procurerò una base magnetica, ce la butto sopra una base magnetica. La voglio tarare. Ma è rimasta un flash, non arrivo, lo pongo in macchina. Guarda, fai come ha fatto una volta Saverio. Saverio ha preso un pezzo di ferro, una piastra sarà stata almeno 20 cm, 20 per 20, e l'ha saldata sopra al passamano della ringhiera di casa sua. E lì c'aveva l'antenna e usciva benissimo lo stesso. Qui arrivava a meraviglia. perciò puoi fare così anche, no? Ma dove l'attacco? A me mi viene male attaccarlo al braccio dello stenditoio, non mi viene male. Dovrei bucare, no, poi il capo è corto. Dove la finestra, dove c'è il baracchino, ci vogliono minimo 5-6 metri di capo. Quello è un altro discorso. Beh, anche se devi mettere sullo stenditoio, sul ferro, due punti di saldatura e la piatta la puoi attaccare lì e ti riprendi, ti disimpegni in qualche maniera. Poi un discorso a capo, quello è un altro discorso. Trovo un'altra finestra, se non ce l'ha, un poggiolo dove c'è una ringhiera in ferro, eccetera. Ma vabbè, il capo questo qua è abbastanza lungo. Ma faccio così, prendo un tappo di baracchino, dato che ce l'ho qualcuno, più di uno. Faccio un foro centrale, l'aggancio lì, la metto in terra, tanto lì già la fa la massa. E si può anche fare così. E me la farò così, sempre, se non mi crea problemi di fatti guai. Ah, non credo che ti crei problemi di guai. Poi no, vedi tu, Luca, vedi tu, ma io non lo so se una cosa che la metti così per terra va molto bene, o meglio che va bene, no, non credo. Se la saldi su una ringhiera è già diverso, perché è una certa diciamo parte negativa che ti fa praticamente come massa a terra, è diverso il discorso. E poi ci metti un'antenna, magari una 5 ottavi anche, tipo la PDC 800, una di quelle va bene. Io negli anni passati la usavo una PDC 800 e funzionava bene, per cui prendi un po' tu. Sì, ma infatti questa qua è una PLC 800, te l'ho detto. Per far funzionare la PLC 800 ci vogliono 5 metri di cavo. Mi sa che sono 5 metri, qua è un cavo. E se no non la tari, no? Non riesci a tararla, Se avete tagliato il cavo, siete buttiti. No, quel cavo è originale, è da 5 metri. L'avevo comprato assieme all'antenna io, a 5 metri. Ma fate 5 metri? Io ho solo il pezzettino del PL, e basta, capito? E l'ho tagliato, ma cos'è? Tanto il PL l'avevo tagliato. No, per togliere la missione c'era anche il PL attaccato. Per togliere il cavo, capito? Ho dovuto tagliare il PL. Va bene. No, però va la luce. Sì, va bene così, fare un buco in un coperchio, poi magari metti un contrappeso che non sia un ingaggio di antenna. E la tari così, capito? Funziona anche bene così, con un coperchio di coso, di baracchino, già va bene lo stesso. Gianni! Ehi, adesso cosa fa per te? Quando non piatta da ganchino? Perché l'altro giorno l'ha aperto Luca la tamponiera e c'è il doppio montante, praticamente portato un po' più indietro, perché c'è il doppio montante nella tampone. Ah, c'è? Praticamente il sede addirittura dovrebbe fare il disco, però c'è tutto montante, quindi il modellone non ci sta, capito? Vabbè, già si trova il sistema già. Adesso mi faccio un lavoretto lì veloce, tempo ne ho poco, perché che ne so. Sono le 7:30, ma chissà da poco andrà a mangiare. Adesso saldo solo il PL e poi faccio quel buco famoso, quel tappo di baracchino e appunto lì. Speriamo mi crei problemi. Ma su di me mi chiami a Ghiddu, che abita vicino a me e mai disturbo. Ma non è casa tua? No, abita anche a me. Da parte di me abita. Ma lo sai da casa della tua ragazza? No, altro non è fuori. Che ti chiama, ma perché stai disturbando? Qual è il problema? Come fa a disturbare un'antenna così piccolina? Ma non è so, capo, perché è troppo bassa. Ah, vai, non disturba niente, ma stai scherzando. Lui cosa disturbi con un'antenna di macchina? Ma stai scherzando. Ce l'ho nella finestra io, non ho mai disturbato. Ma se ce l'avevo io nello stesso palo dell'antenna TV, per cui non dovrebbe disturbare niente o Luca. Ce l'avevo sullo stesso palo dell'antenna TV, perciò andava bene. E Franco in Viale Sicilia non c'era lì lo stesso, attaccato allo bugiore, mica disturba. Però ti va l'antenna. macchine vecchie e vecchie. Natalino, guarda la foto. Natalino, guarda, ti ho mandato anche un messaggio su WhatsApp, leggilo. Non mi ha risposto. Beh, ci sono antenne vecchie che prendono disturbi, il problema è loro, non tuo. Sì, ma lo sai che Aido non ne ha fucchino, dato la televisione ruba di livello. Dici, cazzo, sei tu mi sei di quei belli. Quello è il discorso. Loro ragionano così. La vista. Sì, è vero, perché anche a me mi dice, ora ci sono, c'è un apparato, io me ne può bere, adesso che c'è l'apparato, abbia di ricorre, riposta di ricorre, falli telescopiche e avrei vedere che vedeva la televisione. Ordinata Natalì. Cosa va bene? Cosa va bene? Un altro radiale fuori. Distorsi me l'hanno portato. Sì, non è che te l'avevo detto che l'alluminio è peggio del. Io ho quest'estate avevo l'antenna piena di storni, anche la Mantova, nei radiali originali, non ne hanno rotto uno, flettevano e tornavano a posto, flettevano e tornavano a posto, se ci fossero stati quelli in alluminio li avrebbero rotti, perché erano centinaia e centinaia, capito? L'ho detto. Io ne ho 4 o 5 neri, in fibra nera, ben robusti. E poi ne ho gli altri che volevo a Lucca, quelli originali. Quando fa bel tempo, la bacemmo, s'antenna, le mettiamo i radiali, sui, rosso o neri, più robusti della resina rimangono, capito? C'è da modificare appena appena il passo, ma quelli lì, già lo sai che li devi dare, tu li fai passare appena appena al tornio, e poi entrano dritti dritti. Luca, ma Patamona morto era? Gavino Caschetto tu lo conosci lui? Sì, macellaio. Non so se è macellaio, Gavino Caschetto quello del secondo picchio. C'è la macelleria in via Pasqua, sì, io lo conosco, perché? Ah, esatto, c'è la macelleria in via Pasqua, esatto. L'hai rapinato lo secondo. L'hai buttato tutto, pure la edo l'hai buttato. Non ho capito. Hanno rapinato al secondo pettine. Hanno fatto, vabbè, una macchina, sono entrati, gli hanno fatto via tutto. Dice Marco che li hanno già presi. Due o tre li hanno già presi, poi stanno indagando se c'è qualcun altro che è scappato. Marchetta, a un bel punto c'è Malevitti. Hai ragione, c'è una fame in giro. No, ma non puoi rischiare così, ma come fai a rischiare così, Marco? Ma preferisco morire di fame, ma non puoi rischiare la galera per fare una tronzata del genere, cioè fesseria, cosa hai preso? 1.000 euro di roba, 2.000 euro, siete in 4 o 5, di cosa ti tocca? 200 euro a testa, e dov'è il nesso della rapina? La rapina la fai bene o non le fai bene nulla? E infatti io l'ho detto che erano ladri di galline, o si ruba bene, è grosso, o non si ruba. Avete sentito quella donna che aveva dimenticato una valigia con dei valori dentro e con 200.000 euro in contanti dentro questa valigia? E in un negozio, era entrata a comprare delle cose in un negozio e se l'ha dimenticata questa donna. E si vede che non si era più nemmeno reso conto dove l'avesse perduta questa valigia. La commerciante ha cercato in qualche maniera di trovarla e non è riuscita a rintracciarla. Allora si è rivolta alla polizia e gli ha restituito la valigia con 200.000 euro in contante. Più c'erano anche dei valori preziosi. Sì. Non so io come mi sarei comportato, però penso che se fosse entrata in mano a qualcuno l'avrei durato la valigia viuda. Io me l'avrei tenuto, io sono povero. Io, se poi vai a Retroso pensando dove sei stato, va bene che capisci dove l'hai dimenticata e sono a capo. Comunque per legge gli toccano il 10% per legge. No, sai cosa gli ha detto? Perché gli hanno chiesto, ma la ricompensa gli era data la proprietaria della valigia? Sì, dice, 11 euro perché ha acquistato un qualcosa qui nel negozio. Sì che non gli ha dato niente praticamente. Che schifo, davvero mi fa legge 10, poi non so se sia una legge valida, almeno 20.000 euro gli toccavano. Ma tu pensa che questa donna, la valigia, ma dopo tanto tempo mi l'ha presa, l'ha messa da parte nel retrobottega o da qualche parte, insomma, conservata, Perché non sa, verrà la proprietaria a ritirarsela, si ricorderà che l'ha perduta qua, che l'ha lasciata qua la valigia. Poi cosa ha fatto? L'ha presa e l'ha rimessa nel posto cassa di nuovo, no? Ha detto ma ritornerà, appena che ritorna e vediamo. E questa donna non si è vista, non si vedeva. Allora hanno deciso di aprirla, ha detto ma ci sarà qualche documento, qualche cosa. E invece certo, niente tutto questo, si è dovuta rivolgere alla polizia questa qui, questa donna, questa commerciante, e la polizia pure ha rintracciato la proprietaria legittima della valigia. 200.000 euro, via, non due franche, 200.000 euro, e più preziosi anche. Guarda, se questa la manco è tornata a cercarla, è ricca sfondata. Ma è strano, mica, come mai una donna gira con un trolley con tutti quei soldi? Ma è arrivata in aeroporto oppure non si sa nient'altro, no? Questa è una rimbambina. Guarda, se che soffrisse di Alzheimer, cosa ne sai? Magari non si ricordava di niente. Sai, alle volte può succedere anche questo. Non si sa, boh. Di chi è quella nata lì, come la mia? No, quella è quella vecchia che ho, ma usai Antonio Vaghissa, mi manco già l'ha vista. È più vecchia della mia allora, bella. Sì, ma ha ragione Gianni o Giulio, se uno è stato un bovaro, o un commerciante di preziosi, o un rappresentante, ecco, è diventato Marco Bagatta la valigia. Se questa non si è preoccupata, vuol dire che ne ha tanti. Allora non mi preoccupo neanche io, ok? La mossa da fare era pigliare la valigia, ok? Imbiudarla, tutta, tanto c'è come mondetta buonissima, tutta la mondetta che vera, i preziosi e i soldi, ammazzarli e la valigia non partire da un della mondetta. Sì, ma lo stesso discorso si può fare anche nei confronti della commerciante. Evidentemente anche la commerciante non era così affamata da tenersi 200.000 euro che non erano suoi. Il problema è questo, Gianni. Sì, ma infatti no, magari era anche onesta. Ma io penso che fosse un po' svegliata la proprietaria, perché sennò prendendo tutti quella roba lì uno sarebbe diventato scemo. Poi svegliata, ma non penso, perché la gente che ha soldi è più attaccata ai soldi degli altri. Adesso io suppongo che la magistratura, cioè la polizia o chi di competenza dovrebbe fare delle indagini, come mai questa circolava in giro con 200.000 euro dentro la valigia? C'è da considerare anche questo, non credo che passi giorni tanti tranquillo questa donna, sicuramente la indagheranno. Magari i soldi, tutta la roba era provvidenza l'onfiami. Appunto, maggior ragione per essere indagata, no? Magari non è tornata indietro, però faccio sgamare. Ragion per cui, da giudizio, mi avevo pigliato l'edinà, ok? I soldi preziosi, poi bisogna vedere che preziosi erano, se ne valeva la pena fare il riciclaggio, se no stavi lampando tutto. Tutto lo piacente a mondezza. Quando sarebbe venuta, cosa diceva? Ho lasciato qua una borsa, no signora, qua non ho lasciato assolutamente niente, se no me ne sarei accorta, capite? Intanto lo compattatore, la borsa, la via, ia, chicciata. Ma anche se l'avesse lasciata, che ne so io, qui è un negozio, entra tanta gente, è un supermercato, per cui posso averla presa anche un cliente di passaggio qua, e perché no? Oh Claudio, bisogna stare attenti, perché poteva avere messo anche una, in caso di perdita, una cimice GPS, piccolina, ti segnala esattamente dove la borsa tramite telefono. E magari proprio se la commerciante l'avesse imboscata, quella diceva no, qua non è, e invece era lì, che ne so, tutto è possibile. Ma allora è una rincoglionita, se Giulio sta dicendo che è passato tanto tempo, quindi l'avrebbe ritracciata subito, no? Poi se un GPS l'aveva detto che era nel cassonetto, la mondetta, vai e piglia tia, non me ne frega mai, oppure come ha detto Giulio, guardi, magari l'ha lasciata davvero qua, però io non mi sono accorto di niente, con la gente che entra e esce, si furi se sto guardando la sua borsa. Tante cose ci sono, può essere anche denaro sporco, qualcosa, Oscar però, sai, non so, tante cose. Se te la metti Giulio, visto che è morto, te la metti quello che arriva lì anche da te, vicino a te, GB. E chi? No, non mi ricordo. Chi? Non mi ricordo. Giovanni? Esatto, non dire nome attivo. Giovanni, quando lavorava quello che ha fatto, l'ha fatto perché ha avuto la fortuna, capito? Quando lavorava la discarica, è passata in alto una busta di immondezza nera, di quelle buste grandi, no? E ha portato i gigoli sopra, ha cominciato a lavorare mazzette da 100.000 lire e da 50.000 lire, che tu non ne hai idea, questo l'ha contato a lui, poverino. Tutti raccolti e presi ce li ha, ma ti sto parlando delle lire, capito? Una busta piena venera, un bel di soldi, capito? Quindi, e poi niente, tutto chiuso, però mi ha fatto di roba con quei soldi, già lo sai cosa ha detto qua, sì, ha pagato. Sì, più o meno sì, non proprio tutto, che so, però già so che qualcosa c'è. Sì, ha fatto bene qua, e lui li ha trovati, ha fatto bene a prendersi, cosa dovevo fare? Che aspetta, buttarli in mezzo alla mondezza, no? Ha fatto bene a prendersi. Eia, fate le 9. Arrivi bello forte Luca, guarda un po'. Sì, a 9 qua. Luca, qua c'è 9+20. Io lo sento benissimo a Luca, a metà arrivo io. Visto là? Va bene, qua c'è 9, lo stesso io sono quello distante. Luca, ma Gianni e cosa ce l'hai vicino, quindi ti hanno dato il segnale più alto, però Santiago 9. Oh Giulio, non lo senti a Luca con l'antenna? No, oh, non l'ho sentito a Luca. Prova a parlare Luca se mi stai ascoltando. Parla Luca. Niente, non lo sento. Vabbè, stiamo parlando dei punti, non arrivi ai punti, però noi ti sentiamo tutti, Oh, non arrivo neanche qua, buonasera. Vabbè, già usa la radio, poi il segnale è un altro molto più vicino. Ciao Tino Muscolo, non lo senti a Luca con l'antenna piccolina? No, buonasera a tutti, non lo sento. State va, ho guardato la frequenza per vedere se era di merda. Non lo senti a Tino, Luca? Quindi sei nel circondario, va, nel circondario nostro con questa antennina. Vabbè, Santiago 9 arrivi qua. 9 arrivi anche da Gianni, e da Marco arrivi 9:20 addirittura. Natalino, tu quanto lo senti? Natali, ma la giocata la bocchetta. Vabbè, riprendi Giulio, è entrato anche Tino. Cos'è? Avete parlato di lui? Ho detto che tu non lo senti per niente. No. Vabbè, lui, io sono con 10 watt. 10 watt, vediamo se sale, guarda lo Smith. Ecco qua, salito Megalomane. Sai che ormai qualcosa era, aspetta. 10 watt, eccolo qua. No, io più di 10, 4,40 non lo faccio andare. 4,30 già l'ho tiro, ma 4,40 no. E beh, Muccolo. Allora. Scusimi, un po' ascoltare a voi. Ho detto, figura Dio, non so più che cosa fare. Oggi mi ho pulito tutti i vetri stamattina in questa stanza. Gira maestrale, va via la volgibile, è tutta bestia, me la torre, tutti cagati, va a rimanere così. No, vabbè, io oggi ero impegnato. Sono entrato, ho fatto la luce. Ehi, vabbè, l'importante ci sia la giornata, dimmi. Ehi, ma te le immagini quella megera alla rotonda, con questa pioggia, con questo freddo, con questo vento, come fa a campare? Ma è che gli hanno tolto la copertina. Ehi, all'aperto, all'addiaccio proprio. E tu porta la coperta? Non ammazzano, quando io boccio un telone di lisci di macchina, La scaldo col calore del mio corpo. Io la scaldo subito. Dopo fuoco, uscirà brucio di rondutto. E lo vai a fare, se la scaldi tu. E lo vai a fare, io. Ciao Tino. E allora Giulio? Ma siamo qua guardando la partita e parlando al baracchino. Aspetta un attimo. Ma Stefano c'è? Tino Muscolo, cosa Stefano? No, ho sentito un vai, vai, come lo dice Stefano. Me. Ciao Tino. Io ero, che ho detto vai, vai. Gianni, guarda WhatsApp e anche Marco. A ver se te la ricordi già. Io quella lì l'ho vista 30 anni fa, capito? 30 anni fa Claudio, ce l'aveva Gianni quella, quel gingillo. Sì, vabbè, io no, già l'ho già vista altre volte, non mi ricordo, forse in qualche altra foto, non so. Però io c'ho l'altra diversa da quella che avete vista, la Comfort, già, vabbè. Ok. Cosa stavo dicendo? Cosa stai usando ti sempre col baracchino? non ho avuto voglia di stare a cambiare antenna. No, va bene. 9-10 abbondante, sì, qua. Radio 5 è perfetta. Ma mi stai ascoltando quando ho guardato qua. E adesso mi senti Tino? A buglia. Ah, già funziona l'antenna grande. No, vabbè, comunque è da tarare questa antenna qua. Ora magari un piano di massa. Domani con più tempo mi ci metto, lo faccio, dai. Comunque già va bene. Hai molta, vabbè, la radio è un po' bassina, Però è un po' di alternata e mi stai arrivando 9-10. No, vabbè, l'alternata è questa, aspetta. Si è dato ad aria calda, guarda adesso. Sì, già va bene. Va bene. Oh, Lu, sì, con il 440 ti sto ascoltando. 440 MC60. Stavo dicendo, Lu, non è da tarare l'antenna, devi fare bene massa, capito? Perché l'antenna è tarata, va bene. Non si sente rumore, non si sente niente, è perfetta la modulazione. Così farò. Domani, adesso c'ho più tempo, adesso non ho tempo, poco tempo. Adesso mi faccio una cosettina qua, veloce, e poi va, scappo, che vado a mangiare. E domani poi farò delle prove. Se c'è qualcuno domani mattina, mi male faccio delle prove con Natalino. La metto lì, vicino alla finestra, con questo piano di massa, punta un po' di baracchino, boh, qualcosa. Ho anche un piede di televisore, di quel televisore a schermo piatto, che lì c'è ferro lo stesso, ma lo piego un po' e l'aggancio lì, che è più pesante anche, capito? Non si capoteggia. Sì, c'è buono, è un sacco di cemento, un attimo, sono anche io a casa. Gratta. Che sei detto? Gratta, boh. Vabbè, comunque, pirata tua sorella. Cosa stavo dicendo? Comunque va bene, Santiago non fa arrivi, non ci sono problemi. Andate, dai, riprendete lui, riprendi Giulio. Tu non mi senti, ti sentivo passo passo a te. Beh certo, se non c'hai trasmissione non hai nemmeno ricezione. È normale o lui? Beh, d'altronde cosa potevi pretendere? Senza massa così? Non va bene. Claro, sai che è veramente forte quel giocatore del Cagliari, quel Marella. È forte veramente, è molto bravo. Però di l'avventura. Ti ha portato rimasto a Cigliano e Bescio in Svezia. Ce n'è giocatori italiani bravini solo perché giocano al Cagliari, capito? Non li ha presi, perché quelli dell'Atalanta cosa fanno? Schifo. Chiesa schifo fa. I due difensori dell'Atalanta cosa sono? Da buttare via, quelli della Juve. Lasciamo perdere, cambiamo discorso, adesso non c'è da proprio da incazzarsi forte. Una vergogna totale per la nazione italiana, lascia perdere. Ma di la verità che non era un'Italia da mondiali. Un poco, un attimo, scusa. Sì, vabbè. No, Marco, anche se avessimo proprio, diciamo, la squadra, ho passato quel turno che era molto importante passarlo, poi, come ti dici, no, cammin facendo si aggiustava, capito? Però sono sicurissimo al 100% che se non alla prima, alla seconda partita ci avrebbero eliminato, tranquillo, perché non ce n'è. Oramai la Serie A, in Serie A giocano tutti attaccanti stranieri capito? I difensori sono quelli, ma sono della Juve, hai visto? Bernardeschi è della Juve, Buffon della Juve, qualcuno del Milan, qualcuno dell'Inter, qualcuno del Napoli, ma poi dove sono le altre squadre? Dove sono? Non ce n'è, tutte le squadre italiane hanno giocatori stranieri, è finita l'era dei giocatori italiani. Adesso bisogna rifare il vivaio, ricostruire bene, bene, bene il vivaio per la nazionale italiana e riprovare fra 4 anni. Comunque è meglio che siamo usciti adesso, secondo me qua, perché se fossero andati al mondiale sarebbero stati altri 6 mesi perduti così per strada. Invece così, essendo usciti subito, o meglio, non essendo stati qualificati, hanno modo di preparare meglio, o hanno più tempo, in poche parole. Tanto sarebbero usciti nel primo girone sarebbero subito usciti gli italiani, perché per la squadra che c'era. Invece così non ci sono, come si dice, tolto il dente, non tolto il dolore, no? E allora è meglio che sia successo così, tanto sarebbero usciti ugualmente. Non sono d'accordissimo con te, al 200%, meglio adesso che dopo. Almeno i giocatori sono tranquilli, giocano in Serie A e se ne affuttino che si convocazione a imbreccio che ha fatto. Per carità, che schifo. Cambiamo discorso. Doppio route, quindi Gianni si preparando a portare Ugani. Beh, ancora no, già non sta piovendo, già va bene. Vediamo qua, stazio orario. No, uno, rapporto a uno, doppio, manco i gemotti, già va bene. Avanti Natali. Natalino la forchetta in mano, Marco. La forchetta anche io in mano. Vabbè, la serata è quasi andata. Comunque sì, c'era un casino di macchine. Ricorda, quando piove tutti sono in macchina, anche quelli che non lo usano quasi mai. Ho detto piuttosto che andare da Auchan e fare un calvario all'andata, un calvario al ritorno, ci vado prima di tutto nel pomeriggio quando non c'è meno gente e poi quando non piove mi ci vuole andare con la luce che non piova, o anche che piova ma con la luce. È brutto di notte, tra le gocce dell'acqua, il vetro che si appanna, i fari delle macchine che fanno tutto questo luccichio sull'asfalto bagnato, manco lo vedi il pedone se passa in fretta, non lo vedi. No, la Natali, è bello, il PC all'anno sta. Tanto andava, come lo usi. Non ho capito perché ce l'avevamo spostata, tu la stavi pulendo sicuramente. L'hai staccata per pulirla. No, l'ho toccata, c'era quel filo che ne ho salito io, che come ho infilato la scheda, ha aperto quella farela che la blocca e mi l'ha mullata. A me praticando di quasi su di fretta una rama è mullata. Ma non è detto Natali, non è detto. Perché mi è capitato un computer uguale, cioè uguale, un fisso e non era quello il problema, era il processore. Figurati. Ma vabbè, io ho fatto così e ho visto che è andato tutto a posto. Me ne sono accorto, l'ho presa, l'ho incalcata attorno a tracca, perché i fili li ho tutti da mezzo alle balle. Capito? C'erano i fili in mezzo alle scatole. Forse mai l'hai urtata, dai. Ma la mano non si è bruciata, perché secondo lì passa tensione, no? Secondo come la sali si sciuglie, si brucia, mi è capitato. Era fatto un fiocco di bruciato, perché l'ha messa male, ecco. Vabbè, meglio così, comunque bisogna stare attenti. Quando è? Sì, la rama comunque, certo, lo fa. Se non se ce n'è una messa male non ti dà avvidiata. È normale, oppure se si brucia non ti dà avvidiata. Ma io ho riparato un computer con lo stesso problema, ma non era un problema di RAM, ma era un problema di CPU. Però l'ho sistemato, un portatile, adesso va bene. Risultato ribaltato qua, 2-1. Madonna, ma non è possibile. Forse era meglio fare andare l'under, quant'è? Under 18 là, ai mondiali. Sta vincendo? No, adesso sta perdendo, stava vincendo 1-0 e adesso hanno ribaltato 2-1. Abbastanza andava in mano. Hanno preso anche un palo, proprio già fatto era, però sono solo davanti alla porta, hanno preso un palo pieno, se non sarebbero stati anche 3. Figura del 2, ciao. Signore l'allenatore. Come si chiama? Che suo gambe finito, come si chiama? anche il giocatore stesso, ma non mi viene adesso, che era stato cambiato, ti ricordi che era stato cambiato, prima c'era, cosa c'era, vabbè non me lo ricordo nemmeno quello, non me lo ricordo il nome, no, del, Di Biagio. Ah, Di Biagio, capito, quindi era un bravo giocatore quello. Sì, era bravo, sì, Di Biagio era discreto, però... Il discorso è sempre quello, mamma mia, meno male adesso ha fatto una bella parata, c'era un altro tiro pericoloso dalla distanza, ha fatto una bella parata, perché? La gente sull'allarme lì, pronto, sì. Mamma mia, non era il telefono tuo, Dio? Sì, ma ha risposto mia moglie, no, il telefono di casa quello, con lui il telefono, non era il telefonino, il telefono di base è quello. No, pensavo che aveva chiamato per scendere a cena, sono già lutto. Quindi, caro Marco, così è, non si è andato a nessuna parte allora, pensavo che eri coricato stasera quando siamo entrati a Natalino a chiamarti. No, no, proprio oggi no. Ti ho detto, se l'è andato lo Shan, ma non vedevo troppo traffico, per carità. Poi adesso è un incubo mio, adesso sarà un incubo, sono venuto al centro perché fine novembre, inizio dicembre, con questa storia di Natale c'era un bel traffico, un sacco di traffico, per carità. Guarda, mi ricordo quando non c'era la ZTL, in via Brigata Sassari c'era un traffico, via Cagliari da quelle parti, per carità, guarda, tutto funziona del Natale, che alla fine si può per vendere, capito? Di religioso c'è ben poco, ben pochi vanno in chiesa a mezzanotte, capito? Ben pochi lo fanno, una volta ero andato ma non si poteva nemmeno entrare in chiesa. C'era la fila fino a fuori, lo sai, la fila fino a fuori per la messa di mezzanotte. E non ci sono più andato, tanto pure me. Io mezzo credente o mezzo no. Quindi. Marco, se tu dovessi abitare a Roma non uscisti mai di casa, perché lì c'è sempre traffico. Sì, infatti, Roma, Milano, noi siamo anche privilegiati se vogliamo, in una città come Sassari. Già, anche Bologna nuda. Quando ho fatto sono stato a Bologna io, e poi ho preso il treno per andare a Reggio Emilia da mia figlia quando stavo lavorando lì. Mamma mia! Sono caotico. Vabbè, dai, io vi saluto adesso che c'è il microfono in mano, vi saluto tutti cordialmente, dai, vi auguro buona serata e vi continuo così. Stavo a portare il taglio, se no poi mi dici che tu fai il suo. Aspetta, Gianni. Dimmi. Guarda, se fossi a Roma, una città caotica come Roma, prenderei, mi farei l'abbonamento per i mezzi pubblici, la metropolitana, quello che c'è, capito? Il tram, a parte che ce l'ho anche qua i biglietti del tram, quando voglio guidare vado in tram. Sì, mi farei una città così grande, mi farei piuttosto l'abbonamento con i mezzi pubblici, che hanno corsie preferenziali, capito già? Io già ho visto, sì. Se passa la macchina pulita con la sirena ambulante, no, qua non si ferma nessuno, il traffico continua a scorrere, non si come se non fosse successo niente. Però sono maleducati loro, perché quando c'è una sirena bisogna bloccarsi e farla passare. Vabbè. Bene, ciao già, buona passeggiata al cane, dai, vedo che qua è tutto quieto, non piove più, prima, mamma mia. Sì, ma per tutti che non rispettano né i segnali, niente, nulla, anche mamma che controsenso, tanto a trovare la mica Roma, mi ha fatto fare tutta la Roma controsenso, perché noi camminiamo così qua, passiamo col rosso, no? Non guardiamo nulla. Ha pareggiato l'Italia, 2-2 adesso qua. Ciao, scusa che mi ero allontanato un secondo, ciao, buona serata, a domani se coincide, ciao, vai giù. Ciao, a domani, grazie, è stata chiacchierativa, a domani. Mi prendi Natalici, sì ancora, o Marco, dai. A te un attimo. Ciao Gianni. Qua arriva Terrancio, ciao a tutti, rimango in ascolto. Sì, è che noi tra poco non andiamo a Rancio, mi ha dato un massaggio, mia figlia, un sentire di spianatina con stanotte insomma, oro in casa. Oh Claudio, per adesso, poi quando se ne va di casa non ne mangi più di quelle bontà. Guarda, sto facendo di tutto, credimi, ma di tutto per averla vicino. Non riesco a vendere per andarmene vicino a lei, perché veramente ho detto molto bene. E oggi e domani è a riposo, e quindi di solito il venerdì, però oggi c'è lei, ha detto papà oggi ti faccio fritto, dai. Poi i miei esami, impanato e fritto, è una cosa allucinante, la giro mangia da lui, va basta, va bene, va bene, dai, buon pranzo anche a te allora Marco, riprendi Giulio. Ok, va bene, no, stavo guardando l'azione, niente di particolare, tutto bene, è andato bene per il momento, sì. Comunque offro sempre una sega a nastro, per chi la vuole, offro sempre una sega a nastro, alimentazione a 3,80. Se qualcuno è interessato, se la porta via. Marco, la vuoi? Che cosa? Una sega a nastro. No. Aspetta che mamma è in difficoltà un attimo. Mi stai scendendo la battuta, così te la vai a nastro. Giù, quello che ho detto già devi fare. Io mi sono dimenticato di chiamare Andrea, porca miseria, ma è un barragione con la cosa, si ha preso due quintali. Lui, ma è preso 8 quintali. Stamattina c'era uno con un camioncino. E ho detto, e quanto pesa? Ehi, peserà intorno agli 8 quintali. No, è troppo pesante, non ce la fa la mia gruetta a portarla via. Per dire, se no se l'avrebbe presa lui. Che amicizia, dopo mi scendi. Sto pensando, lì ci vuole un camioncino con la gru, una bella gru, se no come fai? È un problema portarla via da lì, certo che è un problema. Bisogna vedere, chiedere a qualcuno, cercare di portarti via, perché ti sta prendendo spazio, non stai andando avanti con i lavori. Ma se ho quella cosa lì ancora, no, sto facendo delle piccole cose, perché mi sto liberando, però intanto avrei voluto anche incominciare a portare via quella. Poi tutto il resto ho portato via, serrature, cerniere, maniglie, di tutto ho buttato, di tutto. Adesso ho roba di 120 serrature ancora dentro la confezione, nuove serrature per le porte, no, le porte interne. C'è roba di 120, 130 anche, sarà. Non so chi dà, perché se trovo qualche falegname che ne vuole, gliele regalo, cosa me ne vuole. Perché non scendi da Gianfranco, lì a, come si chiama, a San Marcanda, se sono dentro la scatola gliele dai, quello che riesce a recuperare, c'è roba nuova, capito, lui c'ha uno scaffale lì, l'ho visto io, di roba anche così, capito. Però mi hanno detto, non le vuoi, se queste sono nuove, mai usate, scusa, perché non le porti? Ma bonifi X cifra, te la prendi e ti mangi una pizza, cosa vedere? Sì, nuove, dentro la confezione, sono ancora incantate. Pensa che la confezione è sigillata, per dire che no, sono nuove, mai usate. Per cui, vabbè, passerò, vediamo un po' se li vuole, io se no troverò qualche falegname e regalo, tanto io non me ne faccio, non me ne faccio niente, se ne due dì, per non usarle mai, io non te la avrebbe, non mi interessano più, insomma, ecco. Sì, beh, cosa se ne vai, però dico, sono nuove, sotto, e tu, arrangiati, quando l'hai venduto, mi chiami, capito? E ti esce una pizza gratis, capito? Invece che buttarle, o se c'è qualche amico falegname, per carità, che gli vuoi regalare, quello è un altro discorso, ma se così non fosse, io quando ero via Pascoli avevo portato, quando ho svoltato il magazzino, il garage via Pascoli, avevo portato un po' di roba, non mi nulla, arrangiate tu. Mi aveva chiamato, mi ho recuperato una cinquantina di euro, va bene, non ti preoccupare, ok? Capito? Sciumane, sciumane, una missa sei scida. Babbo, posso prendere il microfono, sì? Dai, da che io chiudo, ho fatto un po' di pulizia qua, un po' di polvere c'era, e niente, adesso posso andare a mangiare, e a domani, ciao a tutti, ciao ciao, ciao Cla, riprendi tu. Ciao Lugarie, un abbraccio, vai, ci sentiamo. Adesso mi organizzo, mi dice domani non c'è vento, perché ho visto che sta calmando, intanto posso lì Yeshua, che voglio agganciare il dipolo che si è sganciato col vento, e così me ne scendo con i radiali e ti chiamo. Va bene, dai. Ciao, buona serata, buon tutto, avanti Giulio. Incredibile, ha fallito un rigore in Italia, qua. Un rigore ha fallito adesso. No, ma è proprio l'era dell'Italia quest'anno, non c'è niente da fare. Ma cos'è, eliminazione diretta anche questa? No, lo credo, no. Non so nemmeno se è amichevole, pure, non lo so. Cutrone l'ha sbagliato. Oh cazzo, si è mangiato un gol davanti alla porta, solo. È entrato al volo e l'ha sbucciato, non l'ha colpito la palla. Adesso ha tirato un rigore e l'ha parato il portiere. Ma Cutrone è un bravo giocatore, vedi, anche quello non l'ha convocato. Cutrone è un bravo giocatore del Milan, un bravo giocatore, l'ho visto, insomma, sembra, adesso speriamo che siamo a Genova, siamo a Genova domenica, state attenti con gli infortuni, anche a Sampdoria, noi Bucciari gioca, non ci possiamo permettere lì di perdere punti di nuovo. È un po' pesante, anche perché è in ultima posizione, la Sampdoria è in ultima posizione, non è una squadra tanto facile da affrontare. Sì, sì, e vabbè, speriamo bene, vogliamo vedere. È perché c'è Napoli Inter, così è? Sì, forse sì. Forse sì, non me lo ricordo. Possiamo avere un vantaggio se l'Inter è ferma di nuovo il Napoli, perché Napoli in casa non perde, può pareggiare, ma ne dubito, però Sampdoria Juventus la vedo un po' bruttina, non lo so, no, speriamo bene, poi se l'Inter con il Napoli sono ancora più contento. Ah beh, anch'io sarei più contento, così sarebbe più felice mio genero, perché lui è interista, però non è uno di quei interisti accaniti, no, non gliela frega più di tanto, se vince le fa piacere, ma se perde no, non gliela frega più di tanto. Sì, non ho problema, è l'Inter, mi intendi, perché è una bella squadra, ti ho già detto che c'è un allenatore forte, dove li mette, giocano bene, l'Inter quest'anno merita di essere lo vero. Capito? Quindi se ferma Napoli è fortissimo, non c'è niente da fare, sia in casa che fuori in casa, però se fa il coltaccio che ferma il Napoli e la Juve si riprende questi tre punti, allora Giodurovi. Se riesce a prendere questi tre punti vuol dire che la Juve è ritornata veramente, allora la cosa si mette bene veramente, perché allora incominciano anche ad avere paura delle altre squadre. Che poi non è che sia poi tanto lontano, è un punto appena, e tutto può succedere, per cui non è quello il discorso. Non credo che sia finito, è poco lungo ancora il campionato, ce n'è da affrontare molto, staremo a vedere cosa succede così col passare delle settimane. Ancora giocare la Juve con l'Inter, cioè Juve-Inter e Inter-Juve, a novembre Juventus-Inter mi pare. No, non lo so quando è, non te lo so dire, forse il 23, non me lo ricordo. No, il 23 dicembre è con la Roma gioca il 23 dicembre, il giorno prima di Natale praticamente. Perché quest'anno si gioca anche per il Natale, non se ne fanno di vacanze lunghe. Sì, l'ho visto. No, è la prima settimana di dicembre Juventus-Inter, Inter-Juventus, comunque gioca con l'Inter. Mi sembra che sia il 3 o il 2 di dicembre, una cosa del genere. E poi dopo poi c'è il Napoli e dopo c'è la Roma. Questo mese è un mese molto molto rischioso per la Juve, sì, in effetti è così, si incontra praticamente delle squadre molto molto forti, senza considerare poi anche l'Olympiakos, anche quella, c'è da considerare anche quella, ad Atene, poi, da trovare il biglietto, andare ad Atene. No, l'Olympiakos non è una squadra temibile per la Juventus, però sia ad Atene, è sempre, non so, ma vabbè, ho ragione, l'otto un quarto, un attimo ancora, al ponte, non si può. Io che mi ci accorgo, è appena arrivata nel frattempo, che sto riparando, è arrivata la chiamata. Babu, qua, ci sentiamo, eh? Ciao, ciao, grazie per la chiacchieratina, a domani. Ciao Luca, Natalino, Gianni, Marco, tutti quanti, insomma, saluto da tutti, Tino, insomma, a tutti quanti, saluto da tutti e ringrazio a tutti per aver chiacchierato un pochino. Alle prossime, ciao qua, ripeti. Ciao Giuda, a domani, anch'io stacco, là intanto Marco sta cenando, quindi lui quando cena poi non lo prende più. Vado a bermi due strisciate di TV e poi ceniamo. Ciao Giulia, a domani. Ciao anche a Natalino, ciao Marco, ciao a Tino e chiunque, Gianni, chiunque fosse in ascolto qua su Vici. Un fine serata a tutti. A più tardi, se dovesse coincidere, altrimenti a domani. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao Giulio, ciao Luca. Ti si ascolta le prossime, dai, ciao. Così. Ciao, ciao a tutti, ciao a qui. O ci aggiorniamo più tardi o se no a domani. Ciao, buonasera. Ok, ciao di nuovo a tutti quanti, dai, buonanotte.